Radio 24 Reportage. Tao Asol, uno spazio libero per le donne della Palestina. Di Gigi Donelli. È molto importante che vengano quelli del nord, perché poi appunto trovandosi anche geograficamente più lontano sono sempre un po' restii a partecipare, no? A tutte le attività, quindi insomma c'è Genin, tu passi, c'è già una bella rappresentanza del quando nord. Dici nord, stiamo nord parlando della di qualcosa che dista più o meno? Guarda, da Gerusalemme a Genin sono buone 3 ore e mezza di strada, quindi saranno 200, non so, 50 chilometri. Il termine arabo Tawassol indica un contatto, una connessione, e il programma sostenuto dalla cooperazione italiana che porta questo nome intende affermare l'azione comune tra donne in uno spazio fisico riconoscibile, al centro di una società patriarcale come quella palestinese. Nel corso di un incontro organizzato a Gerico abbiamo condiviso i passi compiuti dalle attiviste palestinesi e dalla cooperazione italiana nella richiesta avanzata al presidente dell'autorità nazionale palestinese di varare rapidamente nuove norme di legge che mettano fine ai cosiddetti delitti d'onore, violenze commesse dai mariti o da altri membri della famiglia contro le donne accusate di comportarsi in modo contrario alla morale. Per ragioni come queste, 27 donne nel corso del 2013 hanno trovato la morte dopo essere state percosse, strangolate o impiccate. Un numero doppio rispetto a quello registrato nel 2012. Anna Rita Ronzoni, esperta di violenza di genere per la cooperazione italiana allo sviluppo. Allora, il progetto WILOD ha come obiettivo generale quello di aiutare lo Stato palestinese nel suo processo di institutional building, e chiaramente tutto il discorso dell'empowerment delle donne, che è un empowerment a livello economico, sociale, istituzionale, e che dunque ha anche una grossa componente di lotta alla violenza di genere, rientra all'interno di questo obiettivo. L'evento di oggi è frutto di un processo partecipativo molto importante, e che è uno dei cardini del nostro programma, appunto la partecipazione e la condivisione con le controparti locali, un processo che si è sviluppato in tutti gli 11 governatorati, dove sono state consultate le associazioni che fanno parte di questi centri Tawassol, che sono centri di empowerment delle donne creati dal programma WILOD, proprio per cercare di capire quali sono i punti rispetto alla violenza di genere che le associazioni e anche le istituzioni locali e nazionali vogliono mettere in primo piano. My name is Fatima Butma. I work with the Ministry of Women's Affairs as the Director of Programs and Projects. Mi chiamo Fatima Butma e sono responsabile per i programmi legati al ruolo della donna palestinese per conto del Ministero degli Affari Femminili di Ramallah. Tra questi programmi c'è anche Tawassol, che è anzi uno dei più importanti per l'autorità palestinese, realizzato in collaborazione con la cooperazione italiana. Tutte queste donne che vede riunite qui oggi stanno celebrando un lavoro molto lungo e complesso, che ha coinvolto 11 governatorati e oltre 250 organizzazioni, non solo femminili, pubbliche e private, che rappresentano uno spaccato reale della società palestinese. Abbiamo creato dal nulla i centri d'ascolto e creato un'abitudine al confronto tra le donne palestinesi. Abbiamo iniziato a lavorare nel 2005 sul modello del Tawassol, che in arabo significa letteralmente ascolto. E ora vogliamo andare oltre e occuparci in maniera specifica della violenza sulle donne nella società. Mi rendo conto che abbiamo una situazione sociale e politica molto particolare, ma d'altra parte sono proprio queste circostanze così difficili a imporre alle donne di affermarsi nella società. Direi anche che il processo di emancipazione femminile che portiamo avanti è proprio uno dei modi attraverso i quali affermiamo la nostra resilienza e la nostra sopravvivenza in questa situazione politica e sociale così complicata. Of the Palestinian women within this very complicated situation. Sicuramente, appunto, il numero delle vittime, delle donne vittime di violenza è cresciuto negli ultimi anni, sia perché c'è maggiore denuncia rispetto agli anni precedenti, ma sia anche perché a causa della situazione sociale, ed economica e politica ci sono dei fattori di rischio che hanno aumentato l'incidenza della violenza. My name is Samia Botmay, I'm the director of the Center for Development Studies at Birzeit University. Sono Samia Al-Botmay, economista. Insegno all'Università di Birzeit. Lavoro nel settore della formazione attraverso la rete delle università palestinesi, che sono 13 e fanno capo alla nostra università. Il 65% di tutti gli iscritti all'università palestinesi sono donne, cosa che accade anche in altri paesi, ma che qui incontra alcune complessità specifiche. Being under colonial rule and then within that having a patriarchal society, this is another. Essere sotto il dominio coloniale israeliano è un elemento di complessità. Essere donne in una società patriarcale è un altro elemento della questione. E noi come formatrici abbiamo il dovere di interrogarci, di chiarire il fenomeno e di produrre delle strategie per mitigarne gli effetti. I centri di ascolto ci mettono in contatto con la società, ci permettono di avvicinare i gruppi più sfavoriti, i segmenti più poveri, le donne più lontane dai nodi dell'attività economica, donne che si trovano in prima linea nello scontro con il potere coloniale, con Israele, e che noi cerchiamo di raggiungere in quanto comunità e non solo come educatori. Gerico, città delle palme tra il Mar Morto e i luoghi del battesimo di Gesù appena riaperti al Kasr al-Yahud, una tranquilla città di provincia dove fanno tappa gli autobus dei circuiti turistici per uno sguardo sui territori. L'atmosfera è più serena che altrove, ristorantini sulla piazza più economici che sul lato israeliano, ottima la pasta sfoglia farcita con formaggio dolce, pistacchi e bagnata col miele, che qui chiamano knafe. Cortesi commercianti, in cerca disperata di clienti, ora che l'esperimento del casinò palestinese è andato a spegnersi. Carla Pagano, esperta della cooperazione da 15 anni in questa parte del mondo, descrive il fenomeno della onghizzazione, ovvero il ruolo assunto dalle organizzazioni non governative in questa parte del mondo. Qui abbiamo avuto momenti di molto pesanti, comunque di attacchi ai campi profughi, ci sono stati tanti morti da una parte, sicuramente anche dall'altra, insomma, c'è stato molto impoverimento. Si parla di onghizzazione della società palestinese, se ne parla già da qualche anno comunque, perché poi quello che erano prima anche i comitati popolari o comunque quello che era il tessuto della società civile, che sopperiva poi alle mancanze di uno Stato che non c'era, è diventata poi una cosa strutturale, per cui la gestione anche dell'aiuto allo sviluppo è stata nelle mani delle organizzazioni, fino poi all'avvento dell'autorità palestinese, che ha assorbito una grossa fetta. Quando poi invece c'è stato un avvicendamento politico, quindi quando poi Hamas ha vinto le elezioni nel 2006, ecco che sulla società civile si è riversato di nuovo tutto. Quindi diciamo anche questo è molto complicato da gestire, sia per noi sia per loro, perché si vedono appunto ricettori principali di un aiuto oppure no, a seconda della situazione politica. Quando usi l'espressione in questo paese, qui dove siamo in questo istante a Gerico, quindi in un'autonomia, in una zona A, oppure in questo paese che comprende anche Israele, insomma, fare cooperazione anche tra questi due attori così diversi? No, fai bene a farmi questa domanda, perché appunto è molto pertinente rispetto alla situazione, ed è sbagliato infatti dire in questo paese, considerata l'accezione del termine che normalmente insomma utilizziamo. E appunto si può parlare di territori, ma anche questo non è un termine molto pertinente rispetto poi a quello che sta significando il termine territori nell'ambito della cooperazione o dei movimenti sociali. E chiaramente noi ci muoviamo come cooperazione, la facciamo nel territorio palestinese, quella che adesso si chiama Palestina, perché poi dopo l'accettazione dell'autorità della Palestina come Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite si dice Palestina, anche se poi rispetto a quello che vuol dire uno Stato-Nazione per noi, a come si è determinato dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ci siamo nei criteri, cioè non ha una continuità territoriale. Ecco, e quindi questo è il primo elemento, insomma, che ti fa, ecco, capire poi come la situazione è qui. Quindi sicuramente è un territorio molto frammentato e fare cooperazione qui significa appunto muoversi in queste bolle. Esposta ai rovesci imprevedibili del Medio Oriente, la cooperazione italiana fa ormai parte della storia di questo paese in cerca di piena identità, lungo un percorso in cui senza dubbio l'emancipazione femminile passa anche attraverso l'eliminazione di crimini odiose come il delitto d'onore, di cui peraltro l'Italia si è liberata solo nel 1981. Sostenere i percorsi che assicurano maggiori poteri alle donne nella società, ci spiega il direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo Giampaolo Cantini, significa dunque aiutare la famiglia, il paese, aspettando anche la pace. Sì, la cooperazione italiana in Palestina ha una lunga tradizione, opera da molto tempo, si inserisce nel quadro dell'azione della comunità internazionale a sostegno della realizzazione dello Stato palestinese, uno Stato palestinese che viva in pace e sicurezza con tutti i suoi vicini. Le attività che noi dedichiamo soprattutto, diciamo, a quello che chiamiamo empowerment femminile sono incentrate anzitutto in una componente importante dei nostri interventi del settore sanitario, poi nell'attività di un centro, cosiddetto centro Mehwar, che si trova vicino a Betlemme e che è un rifugio, un centro, diciamo, di accoglienza per donne vittime di violenza, dove ricevono assieme ai propri figli un'assistenza dal punto di vista anche legale e psicologico. E poi vi sono una serie di attività, diciamo, di centri di assistenza alle donne che invece sono stati istituiti grazie alla cooperazione italiana presso ogni governatorato. Altri due settori importanti della cooperazione italiana tradizionalmente sono il settore sanitario, dove, come dicevo, c'è anche lì un forte accento, una forte attenzione alla componente femminile, quindi servizi di salute materno, infantile e di ostetricia, e il sostegno al settore privato attraverso le linee credito per la crescita della piccola e media impresa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.